Il punto di Stefano Folli. Nel ritorno di Berlusconi ci sono tre elementi che colpiscono. Primo, la volontà di recuperare il momento magico delle origini, la vittoria del 94, quasi 20 anni dopo. E c'è una forte illusione psicologica in questo, ma anche la fredda volontà di utilizzare quello che sarà possibile raccogliere in termini di voti, poco tanto che sia, per proteggere se stesso e i propri interessi, influenzando ancora la scena politica nazionale. Secondo, la vittoria di quel cerchio magico che gli avvicina e lo sostiene comporta una precisa linea antieuropea e fortemente segnata in senso populista. È l'abbandono di fatto di qualsiasi intenzione di rappresentare in Italia il Partito Popolare Europeo, di cui l'elemento più rappresentativo oggi è Angela Merkel, con le sue politiche, certo, e in cui si riconosce idealmente il Premier Mario Monti. Terzo, una domanda: che fine faranno i moderati del PDL? Seguiranno il capo nell'ultima crociata o se ne andranno? Se c'è una scissione in atto, è bene saperlo prima che sia tardi.